Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Io lavoro sempre quando vedo questi ragazzi. È anche bello vederli attivi, insomma, non buttati là nei centri. Piuttosto di fare cose sgradevoli, è meglio questo. E sono cose belle a vedere. Buono, utile, onestamente. Penso che è una cosa stupenda. Anziché tutte queste sedute chiedendo senza fare niente, questo è almeno un lavoro, non mi sembra una cosa che il comune dovrebbe fare però. Se fossi in comune adotterei un sistema per farli lavorare, ovviamente pagandoli, per integrarli e fare una cosa utile per la città. Do you feel sometimes sad that you're so far away from your country? Questa è l'esplosione dell'allegro senso di solidarietà che alcune persone hanno provato nella città di Roma un paio di mesi fa, quando per la prima volta hanno visto un ragazzo lungo la strada che puliva il marciapiede davanti a casa loro. Ora immaginate, in un momento in cui il problema viscerale in una città come Roma è quello della spazzatura, ci sono cassonetti debordanti, strabordanti, incendi, sta succedendo di tutto. Vedere un immigrato che con la scopa in mano, in maniera molto pulita, precisa, pulisce il marciapiede di fronte a casa vostra, dove c'erano mucchi di robaccia accumulata nei mesi, che è pulito, lindo, sembra quasi il vostro salotto. E lo fa con grande cura, lo fa con grande pulizia, facendo tanti piccoli mucchietti di spazzatura, foglie secche, mozzicone di sigaretta, tanti piccoli mucchietti, molto lentamente, non ha molta fretta. È uno zainetto pulito, tranquillo, ci ha appoggiato un cartone dove c'è scritto: gentile signore e signore, desidero integrarmi onestamente nella vostra città senza chiedere l'elemosina. D'oggi terrò pulite le vostre strade. Vi chiedo soltanto un contributo di soli 50 centesimi per il mio lavoro. Buste, scope, palette, altro materiale per la pulizia sono ben accette. Questo, io sono rimasto commosso una volta, guarda che inventiva questo ragazzo. Da un certo punto di vista ridimensione, riscatta l'idea che si vede nei centri di accoglienza, gente che non fa niente, abbandonata. Poi ne sono piene ormai le pagine dei giornali, anche la radio, la televisione. Quindi si dà da fare, va incontro a un'esigenza che abbiamo noi, quella di pulire le strade. Lo fa con grande pulizia, ma diamogli dei soldi, e ben volentieri per molti giorni glielo dati, pensando che fosse un caso isolato limitato al marciapiede di fronte a casa mia. Poi ho visto che in televisione ne hanno intervistato un altro, sempre nella mia città, in un'altra città. Dico, ma vedi, si è sparsa la voce. Poi ho visto che anche in altre città d'Italia hanno sempre lo stesso cartello, lo stesso cartoncino e lo stesso format. E ho capito, senza nulla voler, da quei ragazzi che sicuramente cercano in qualche maniera di sfangare la loro giornata. E ho capito che è proprio un format preciso. Perché si fanno i mucchietti? Perché ognuno che passa ha la consapevolezza del lavoro compiuto. Perché si fanno lentamente? Beh, perché se tu ci stai 5 minuti a pulire un marciapiede, è chiaro che hai meno possibilità di acquisire passaggio. Perché metti lo zainetto per terra con questo cartello scritto perfettamente? Perché dà segno di una persona comunque pulita, linda, che ci tiene alla propria persona, quindi non un mendicante abbandonato a se stesso. Scrivi un bel cartello in bell'italiano. Il concetto filosofico è perfetto, mi voglio integrare, vado incontro a quella che è una disattenzione pubblica che non mi dà occasione di avere degli strumenti per integrarmi, e vi faccio vedere io che faccio qualcosa che voi non siete capaci a fare. Quindi in qualche maniera compensa il pregiudizio che ci può essere verso l'immigrato con il rancore, a volte anche becero ma anche giustificabile, che hanno comunque i cittadini verso un'amministrazione che non pulisce. Sì, ma che c'entra Pescara, che c'entra in altre città d'Italia? E quindi ho capito che anche in questo caso ci troviamo di fronte a un format pensato, studiato, immaginato per qualcuno che questi ragazzi si sta sfruttando, li manda in giro a mettere su questa bella sceneggiata di pulire le strade, che infatti le puliscono, sì, ma le puliscono finalizzate a lasciare dei mucchietti per far vedere che le stanno pulendo. E anche dietro questo c'è un grande affare di sfruttamento delle persone che in realtà hanno più bisogno degli altri. 800 24 00 24, quanti nuovi format avete individuato nelle vostre città? Quanti avete visto i ragazzi che puliscono le strade, che magari li pulissero, magari fossero impiegati dalle amministrazioni per pulire le strade, ma non è così. C'è qualcuno che li sfrutta dietro di loro, gli fa pulire le strade, perché noi possiamo pensare che ci sia in fondo nel mondo degli sprazzi di bontà e di buonsenso, ma purtroppo non è funziona sempre così. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Finta vecchia nera rattrappita tremolante. Per realizzare questo format occorre una palandrana nera, un foulard nero, un bastone con manico segato per una lunghezza di circa 30 cm, un bicchierino di cartone con dentro qualche centesimo, un santino incelofanato per proteggerlo da eventuale pioggia. Per realizzarlo occorre una notevole elasticità di giunture. Per dare l'illusione del rattrappimento serve che il figurante, di solito è un ragazzo giovane, sia quasi un contorsionista. La vecchia rattrappita riesce a stare nella posizione fetale inginocchiata anche un'ora di seguito. Si appoggia al troncone di bastone e simula un tremore diffuso e continuo di tutte le membra. Il volto e la testa sono completamente coperti con il foulard e alle mani mette spesso dei guanti sempre neri. Quando non ce la fa più, si guarda intorno, si alza e si allontana a passo svelto, dopo aver messo tutti gli accessori nello zainetto ultramoderno che porta sulle spalle. Ricorderete che abbiamo già fatto un'analisi di quelli che sono i sistemi per chiedere l'elemosina nelle nostre città, soprattutto sono collocazioni metropolitane e essendo gli stessi che si muovono e si ripercuotono e si ripetono proprio come un format televisivo in tutte le città d'Italia, ci veniva allora da pensare, ma riproponiamo ancora oggi, visto che ci sono già comunque inchieste di giornali che stanno facendo un lavoro in questa direzione, c'è un vero grande racket che studia, immagina, pensa, secondo del fluttuare di quelle che sono il sentire sociale, le nuove forme di chiedere l'elemosina. Questa è la vecchia rattrappita, la conoscete, a Roma erano piene, si vedevano spesso nei periodi in ogni angolo, possibile tutte signore con lo stesso tipo di infermità, con lo stesso tremolio, rattrappite, lì accucciate, sembrava uno scarafaggio nero, un grumo di umanità sofferente. Poi usciva un ragazzino, prendeva tutto, entrava lo zainetto e se ne andava. Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Nicoletti? Sì, sono io. Nicoletti, ho il fiatore perché sto andando a un appuntamento e voglio arrivare puntuale. Sì. Ho sentito la trasmissione, il pezzettino che riguardava gli extracomunitari che spazzano e puliscono la città. Sì, che è una bella cosa, però è brutta cosa se qualcuno li sfrutta, qualcuno in realtà... No, un altro. Io l'ho notato, alcuni probabilmente lo fanno seriamente, quindi è vero, altri spostano la spazzatura di un metro... da una parte all'altra. Fanno dei mucchiettini tutti uguali, vero? Per far vedere che stanno lavorando, sì. Ecco. Me ne sono accorto anch'io. Quindi è questo che infastidisce, perché poi se uno li guarda, si sofferma a guardarli, e si rende conto che sono attori. Allora, io all'inizio ero colpito anch'io positivamente, mi piaceva l'idea, mi commuoveva, e quindi il format funzionava. Ho osservato con attenzione, in realtà il loro scopo... Il marciapiede si è pulito, ma fanno tanti mucchietti visibili in modo che il passante vede il risultato della spazzatura e dice, vedi, sta pulendo. In realtà è studiato, è studiato bene. Ora non si può prendere con quel ragazzo se uno arriva a dover fare questo, poverino, veramente la sua ultima chance. Quello che è un'altra cosa fare, sì. Certo, magari illecita. Però c'è qualcuno, immagino, che abbia pensato il format, formato le persone a fare tutti la stessa opera. Io a Roma l'ho visto in vari quartieri, si comportano esattamente nella stessa maniera, quindi c'è una scuola dietro, hanno le stesse scope, le stesse palette, lo stesso cartello scritto nella stessa maniera, cioè stampato con la stessa stampante, appoggiato allo zainetto, anche lo stesso modo di scherzare, quindi hanno sicuramente hanno una formazione. Sì. Io Nicoletti sono arrivato al Ministero dell'Interno, ho la porta qui davanti. Sì. Se non la disturba, io la ringrazio. No, grazie. No, figura, grazie, bontà sua. Propongo un altro format di quelli nuovi, e poi dopo vi faremo ascoltare quelli classici. Un altro format di quelli nuovi è che davanti a ogni bar, a ogni esercizio in cui ci sia commercio di genere alimentare, quindi tutti i supermercati, ma anche i negozi di genere alimentari, la mattina, dalla mattina quando alzano la saracinesca, quindi il bar sotto casa mia che la mattina alle 6 è già aperto, 6:30 è già aperto, c'è già un ragazzo africano con il cappellino da baseball in mano, sempre ben vestito, molto educato, che dice semplicemente ciao amico. Questo ciao amico io me lo sento nel tragitto da casa fino alla metropolitana dire altre 10 volte, perché dovunque c'è una pizzicheria, un bar, un negozio di genere alimentare, c'è davanti un ragazzo che dice ciao amico. Quindi mi sembra strano che improvvisamente da qualche mese lì laddove prima c'erano altri tipi di richieste elemosina si sia stabilizzato questo tipo di format. Ma leggo che a Bari c'è un'associazione che si è presa la briga di andare a fondo e ha visto che in realtà c'è un pulmino che li prende e li porta tutti la mattina e poi li va a riprendere la sera, quindi li sfrutta. Di quei pochi soldi o tanti che prenderanno, la maggior parte se la prende il loro pappone. Anche qui hanno studiato qualcosa per giocare sul senso di colpa. Vado a prendermi un caffè, una brioche, posso non dare una monetina a un ragazzo gentile che mi dice ciao amico? Non me lo chiede in maniera invasiva, molto discreta. Devo dire, hanno messo a punto dei sistemi decenti, civili, per esprimere il loro bisogno. Ma la cosa che non piace è che dietro ci sia un racket. Giacomo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vabbè, comunque non è che ci dobbiamo scandalizzare, perché qua ogni cosa in Italia ci scandalizziamo. No, io non sono scandalizzato, io sto osservando e chiedo al mio pubblico se mi dà conferme dalla loro testimonianza personale di quelle che sono intuizioni, posso anche sbagliarmi. Ma sicuramente sì, signor Nicoletta, in Italia funziona così. Io a questi ragazzi un po' li ammiro perché hanno coraggio di fare qualcosa che noi pecoroni italiani non abbiamo il coraggio di fare. E questo va bene. I supermercati, io vivo nella provincia di Vicenza da oltre 30 anni e sto vedendo che sta prendendo piede, si mettono fuori i supermercati. Ciao amico, tutto bene? Vedi però, scusi, Giacomo, a Vicenza fanno esattamente, applicano lo stesso modello che vedo a Roma, che siede in un'altra città d'Italia. Mi sembra un po' strano che ci sia una comunicazione così stretta di rifare lo stesso gesto. Non è che c'è il tentativo di dare una mano a spingere il carrello, di portare la borsa in macchina. Appoggiati semplicemente ciò amico, che il format prevede quello. Deve essere un minimo intervento economico con un minimo sforzo, deve essere quasi trasparente la cosa. Dicono ciao amico. Loro sono collegati da qualcosa, nel senso che dalla Sicilia alla Val d'Aosta, per dire. Loro comunque sono collegati a un qualcosa che puntualmente li formatta, li fa cambiare, li formatta, perché poi cambia, perché poi prima o poi arriva qualcuno davanti al supermercato e dire tu qui non puoi stare. Allora ecco che cambia la musica, cambia tutto e allora si buttano a fare altre cose. Però vede Giacomo, quello che a me interessa, essendo poi un appassionato di sintomi nella comunicazione, e capire chi è la mente che pensa queste cose, perché è una mente molto raffinata, non è una mente rozza o superficiale, capisce quali sono i bisogni al momento. Adesso non si vedono più ad esempio i fakiri sospesi, pochissimo, ma c'è stato un periodo che l'Italia era piena di fakiri sospesi che stavano a mezz'ara con uno che li teneva appoggiati a un braccio. Poi si capiva che in realtà era una struttura che gli passava sotto il braccio, una specie di tubo innocenti che gli passava sotto il braccio, che ancorata a una base dove poi mettevano il tappetino con i soldi, stavano così. Ma chi ha costruito quell'attrezzo? Chi lo dà in franchising a tutte queste persone, centinaia in tutta Italia, assieme ai vestiti arancioni, insieme al sacchetto per cambiarsi, una specie di tendina in cui si cambiano? Chi ha messo a punto questo format? Beh, qualcosa che è vicino alla genialità. Maurizio. Buongiorno, io chiamo perché da Roma, incrocio via Tuscolana e Capannelle, si verifica a volte la situazione di un mendicante con cappotto, scalzo, specialmente d'inverno, che fa abbastanza impressione. Uno dà la sua moneta, poi ho assistito a una scena di scontro tra lui e alcuni giocolieri, questi ragazzi. Ah, mi descriva il primo, perché il primo è il vero format, i giocolieri poi sono... Questo signore chiede la moneta e poi ho visto si spostava nel cespuglio, raccoglieva il suo cellulare per chiamare forse. Allora fermo un attimo Maurizio, le faccio ascoltare una cosa che io avevo preparato qualche tempo fa. Il cappottino scalzo. Per realizzare questo format occorre lasciarsi crescere una barba incolta, capelli ugualmente lunghi e disordinati. I piedi devono essere particolarmente lividi, inzaccherati di fango. Per quanto riguarda l'abbigliamento, occorre unicamente un cappotto lacero e abbondante, ma non troppo lungo, per accentuare il contrasto della fuoriuscita delle gambe nude. Il cappottino scalzo lavora ai semafori. La sua apoteosi è i giorni di pioggia e maltempo. Si aggira in stato confusionale tra le automobili in attesa del verde, stringendosi addosso quel cappotto sotto al quale fa intuire di essere quasi nudo. L'effetto dei piedi nudi nelle pozzanghere e dei lunghi capelli bagnati sul viso barbuto ricostruisce perfettamente l'icona del Lecce Homo. Ecco Maurizio, è quello che ha visto lei. Perfetto. perfetto, uguale, identico. Vede, io ho trasformato in un format quello che ha visto lei. Adesso che è caldo fa ancora più impressione, perché vedere uno con il cappotto, che a Roma saranno 30 gradi in questo momento, camminare a piedi nudi sull'asfalto. Ma le giuro che io l'ho visti dentro lo zainetto, hanno anche vestiti, poi si rivestono. Io penso che anche i piedi neri non sia sporco, vero? Ci sarà qualche... perché no, si rivestono. Perché si rivestono, poi escono con i jeans, una maglietta, sono normalissimi dopo. Ci manca solo il cellulare nel cespuglio per chiamare eventuali rinforzi, per esercitare la loro egemonia sul semaforo, insomma, sì. Speriamo. Però lei capisce che dietro il pensiero, dico, cosa voglio pensare? Io voglio inventarmi un sistema per fare soldi. Cosa c'ho come base lavoro? Disgraziati che non c'hanno nulla, che metto in campo. Come li metto in campo? Beh, Victor Hugo all'inizio dell'Ottocento pensò e immaginò che esistesse un racket che storpiava i bambini. L'on Kyrie è esattamente questo, uno che poi fa fortuna, ma in realtà era stato preso e hanno tagliato la bocca in modo che sembrasse che ridesse sempre, perché era un bieco sfruttatore di mendicanti che aveva messo a punto questo orrido format ottocentesco di sfregiare i bambini perché facessero pietà. Oggi li travestono da macilenti e ceomo col cappottino perché questo pensano che ancora resta a scuotere la nostra indifferenza. Sentiamo Claudia, velocemente, Claudia. Sì. No, io li vedo oramai da, diciamo, un paio d'anni. Anch'io ho pensato personalmente al format. Quale format vede lei? Quale impatto? Io vedo il format. Allora, sono davanti alle panetterie, che a Milano sono abbastanza del centro e semicentro. Sono davanti, sono vestiti tutti con jeans, come diceva lei prima, molto puliti, cioè, eleganti, puliti. Sì. Hanno tutti il cappellino da baseball, sì. Identico, è quello che mi ha fatto venire in mente l'idea. Io in realtà gliel'ho anche detto un giorno, perché ce n'è un ragazzo che è quasi sotto casa, gli ho detto, ma a parte che gli ho detto che a 20 anni questa è la vita di stare col cappellino da baseball. E lui ha detto, ma chi è che ti porta? Ma loro non lo dicono, ovviamente non possono, certo, dire. Ma poveracci. Però sicuramente è un format, sono tutti uguali. Ma secondo lei cosa hanno pensato? Hanno pensato che debba dare l'impressione quasi di un giovane studente americano, magari, che in quel momento, visto che tu compri il pane, gli dai un aiuto perché si trova... Secondo me hanno pensato che sono effettivamente ragazzi che di migranti, questi arrivati, però vestiti bene, gentili. A me dicono sempre, buongiorno signora, buona giornata, ma con una voce flautata. Sì, o ciao amico, dicono, ciao amico, buongiorno. Sono molto gentili, non chiedono molto nulla. Molto gentili, educati, non pressano, non chiedono, non sono come quelli in metropolitana, appunto, ecco, che sono un po' più pressanti. In metropolitana, diciamo, adesso li faremo sentire, perché faremo sentire anche come c'è teche della RAI, che fa vedere i vecchi programmi, li facciamo anche sentire i vecchi format, quelli che andavano qualche tempo fa, e poi ci sono sempre anche i sempreverdi. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Ragazza madre indigente. Per realizzare questo format occorre un lattante vero da tenere imbragato addosso, un bicchiere di carta e dei tranquillanti. Il tranquillante serve per poter godere di libertà d'azione e a non essere disturbati per ore. È necessario inoltre imparare a memoria la formula di richiesta, che è sempre la stessa in ogni città d'Italia. Buongiorno signori, scusate per il disturbo, sono una ragazza povera con un bambino piccolo, aiutatemi vi prego per favore, con magari 5 centesimi per comprare latte e panolini. Dio vi benedica la vostra famiglia e i vostri bambini. Auguri buona fortuna, signori, e buona giornata a tutti. La formula è calibrata per permettere di ripetere un rapido passaggio per almeno 2 vagoni di metropolitana tra una stazione e l'altra. Io pensavo questo fosse un format ormai in disuso. In realtà l'ho visto riprodurre proprio 3 giorni fa nella metropolitana A di Roma, all'altezza più o meno di Spagna, la fermata Spagna. E mi domando anche qui, la cadenza è questa, qua è un ragazzo che la rifà su YouTube per far capire, ma esattamente questa, come avete visto, è confondibilissima con la reale cadenza. Qui non è soltanto il testo imparato a memoria, non è soltanto il format sempre uguale, ma anche la cadenza con lo stesso accento, sempre uguale, in qualunque stagione dell'anno, in qualunque anno, in qualunque città d'Italia, in qualunque metropolitana. Questo è un format, come se ci fosse una persona che dice, questo l'hai studiato, questo funziona e questo devi fare. chiamare. Mi scrive un ascoltatore via SMS: ma che ci guadagna chi fa questi format? Come che ci guadagna? Chi fa questi format poi permette, ci possa essere un racket che prenda comunque il guadagno di queste persone, lasciandone loro magari una minimissima parte. Aldo, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo intervenire perché ho notato proprio, siccome sto ascoltando il suo programma, calza proprio con quello che ho notato qualche tempo fa. Io sono un camionista, sono di Cuneo, ma sono sovente in Toscana, no? E tra Firenze ed Arezzo ci sono due autogrill a scendere e due a salire. In uno dei miei viaggi mi è capitato di fermarmi in combinazione in tutti e quattro. Ora, in tutti e quattro, con mia grande sorpresa, ho proprio trovato quello che lei sta dicendo in questo momento, il classico neretto lì davanti, ok, che c'è un amico, così così. E infatti io ho pensato, guarda, manco fossi a casa mia a Cuneo, che abbiamo quei due o tre supermercati dove in un paio, ad esempio, fanno presenza fissa e funziona realmente. Però così lei mi conferma che non c'è una variazione, il format è sempre eseguito, il format assolutamente è uguale. Ciao amico e... universale, dappertutto. Qualcuno mi dice sono molto gentili, perché altrimenti potrebbero, se loro dicono dammi dei soldi, essere accusati di accattonaggio. Non chiedono mai dammi dei soldi. Quindi vede che c'è anche uno strumento legale molto raffinato dietro, perché certo. Ma io di questo non sono convinto. Mia moglie infatti gli dà sempre qualcosa, io gli dico sempre ma non dargli nulla, di fa che vabbè, se vuol darglielo è libero di darglielo, perché alla fine chiaro, vive quel ragazzo, però sì, alimenta un racket, questo è essere sicuro, questo che alimenta un racket, perché non è possibile che ci sia stata una sorta di passaparola, diamo per assurdo c'è il passaparola, che però si è eseguito in maniera così totalmente pedissequa, rigida, nessuno abbia pensato una variazione, no, tutti ciao amico, vestiti alla stessa maniera, con il cappellino, con lo sguardo tenero, con la maniera gentilissima di rivolgersi, nessuno ti chiede nulla, ciao amico, io rispondo sempre ciao, buongiorno, come stai, cose del genere, però alla fine è chiaro che se persiste il format vuol dire che il format ancora funziona, è come quei programmi che rimandano in televisioni minori finché funzionano, evidentemente poi ecco dai supermercati passeranno agli autogrill e passeranno in altre zone e poi se ne inventeranno un'altra. Maurizia da Modena. Buongiorno. Io volevo così parlare e mi ritrovo in ciò che avete appena descritto. Noi a Modena abbiamo un bellissimo centro cittadino con il vecchio mercato, che è fornito di tre ingressi, e davanti ad ogni porta di questo mercato tu vedi che ci sono appunto queste persone che dicono appunto ciao amico, buongiorno signora. Però siccome io frequento spesso, perché mi approvvigiono in questo centro, che all'interno della piazza antistante c'è sempre un notissimo zingaro al telefono che comunica, guarda caso, io ho fatto proprio caso fermandomi un giorno ad osservare, con questi ragazzi. Quindi potrebbe essere non azzardo ipotesi di cui non ho prove, non posso provare, però è un racket molto più raffinato, organizzato magari, non so, dai Rom o da qualcuno che prima mandava le signore nelle metropolitane a dire sono povera donna, 50 centesimi, adesso ha capito che funziona di più usare i giovani africani da mettere davanti ai supermercati. Questo è tutto da verificare, io ho notato questa coincidenza. Va bene, quando poi ci sarà qualcuno che si muoverà, perché è il suo mestiere, per individuare l'aspetto criminoso di questa vicenda stiamo descrivendo, saremo lieti di raccontarlo. In questo momento io non faccio ipotesi, dico solamente che osservo che in tutta Italia le persone che ormai chiedono l'elemosina sono organizzate e strutturate in una sorta di palinsesto, che è sempre lo stesso, con dei format omogenei che si riproducono in tutte le città d'Italia, con la stessa formula rigidissima, nessuno esce dalla formula, nessuno dice buongiorno amico, dice ciao amico, nessuno invece il cappellino da basket, da baseball americano a una paglietta, no, hanno tutti il cappellino da baseball americano, perché nella mente del formattatore quello è l'impatto che dobbiamo avere noi, un giovane che potrebbe sembrare un giovane americano, uno studente che casualmente è davanti a quel supermercato perché non so, ha perso le carte di credito, quindi mi dice ciao amico e mi viene voglia di dargli una mano. Massimo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. L'ascolto. Senta, forse non è aderente proprio all'attuale format che è più diffuso e che noto ogni giorno. Ho 72 anni e già 20 anni fa, quando lavoravo 15 anni fa, sia in via Monterosa, sia in viale Certosa, tutte queste zone, c'era, chiamavano racket, organizzazione, non so come dire, ma comunque sia, i lavavetri ai vari semafori. Io notavo la mattina tra le 7 e le 8 prima di andare in ufficio, facevo spesso gare cettose per andare a Biello o questo o quest'altro, c'erano i pulmini che scaricavano regolarmente tutti qua, a ogni semaforo uno o due di questi lavavetri. Per cui il fenomeno c'è, ripeto. No, lei ha detto una cosa molto giusta, lo sa, cogliendomi anche in un mio errore, probabilmente. Ormai certi format sono talmente stabilizzati, come il TG1, sempre uguale da 50 anni, il TG2, il TG3. Uno non pensa ci sia un format dietro, perché c'è, fa parte della propria realtà quotidiana, e quindi diventa, si mimetizza nella realtà, capito? Non è, diciamo, un nuovo. Se c'è la sigla, c'è qualcosa che gira, c'è l'annunciatore, il giornalista seduto, legge le notizie, si finisce con una notizia di Mollica o di spettacolo comunque, e poi si danno le previsioni del tempo, si apre comunque con la politica, con le dichiarazioni. Comunque è un format talmente stabilizzato che lo assorbiamo. Il lavavetri non ci facciamo più caso, come siamo abituati. Ci si faceva caso, mi ricordo, le prime inchieste si facevano i primi anni 90, c'è gente che viene a lavare i vetri e ti chiedono i soldi, se c'è che vedi polacchi lavavetri, allora erano polacchi, era il periodo di Solidarnosc, arrivavano i primi polacchi in Italia e lavavano i vetri, sembrava una cosa stranissima. Probabilmente adesso quello è un format stabilizzato, ormai fa parte della prassi, un palinsesto continuo. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. L'umile genuflesso. Questo format si può realizzare secondo due varianti. Nella prima, il questuante sta muto e immobile, inginocchiato con il busto eretto e le mani congiunte in preghiera, mantenendo lo sguardo fisso davanti a sé. Nella seconda versione, il soggetto è totalmente prono, chinato in avanti con la fronte che arriva a toccare il marciapiede. Questa variante è tanto più efficace quanto più il passante rischia di schiacciarne la testa con il piede. È usato anche il format misto, con alternanza delle due versioni da un'ora all'altra. L'umile genuflesso capita nei marciapiedi piuttosto larghi, via Colla di Rienzo ce ne sono ormai difissi da tanto tempo, sono donne anche molto spesso, stanno proprio con la faccia schiacciata a terra come dei catecumeni nel momento dell'ordinazione sacerdotale. E uno rischia di inciamparci, ma è possibile che questa persona è arrivata a un punto tale di abiezione che si umilia al punto tale che io sto per schiacciargli la testa? Solo che anche quelli, poverini, qualcuno magari l'ha fatti allenare per settimane a fare l'umile genuflesso, a mettere il santino, a stare gli stesi a faccia terra, perché non ci sarebbe bisogno, anche loro non chiedono nulla naturalmente, però fanno parte di un format. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, diciamo ho telefonato non tanto per aggiungere ancora una nuova caratteristica di un format, diciamo da esperto commerciale, io vivendo in un paese piccolo vedo anche la suddivisione delle zone. Cioè Di cosa si occupa? Di marketing? Di cosa si occupa lei? Io sì, sono... Adesso sono amministratore delegato, ma sono di istruzione commerciale, quindi Mi serviva direttore marketing e così via. Mi serviva una voce in allora, dal punto di vista proprio del suo skill professionale specifico. Sì. Lei come vede strutturato questo business? Perché alla fine dietro c'è come ci fosse un'azienda che produce immaginario. Come ha accennato lei qualche minuto fa, ci sono proprio delle menti raffinate. C'è uno studio. Se dovessi fare il mio esempio, vivo a Lovere sul lago di Gio, che è un paese di 6.000 abitanti, vedi la suddivisione geografica, cioè chi è lì è il lunedì, il martedì è nel paese dopo, il mercoledì è nell'altro, il lunedì torna lì. Lo stesso gruppo di persone ha 4-5 caratteristiche diverse per cogliere, diciamo, le differenze di motivazione del target. Ah, perfetto, mi spiega questo. Fermo, Alessandro, scusi, no, lei ha detto una cosa molto importante. Loro devono individuare le motivazioni nel loro target, cioè devono capire esattamente dove vanno a toccare. Secondo lei, faccia uno sforzo professionale, perché davanti alla panetteria, al negozio alimentare, il ragazzo con il cappellino da baseball vestito bene dice ciao amico, quale potrebbe essere? Perché sa che c'è la moneta e quindi uno la moneta va via velocemente, fai la svelta, però anche a dargli 1, 2, 3 euro, perché sa che c'è il resto di moneta, mentre se c'è la carta sa altrettanto bene che è difficile che uno gli dia la carta. stando in una zona, conosco le persone. Io c'è qualcuno che quando arrivo e parcheggio, diciamo, in piazza, da lontano li vedi che cominciano ad arrivare, perché magari io gli do uno anche 5 euro e 10 euro, che però diventa stancante perché arrivano quasi a conoscerti per nome, però lavorano in gruppo, alla fine probabilmente tirano la somma insieme. Ma se tu gli hai dato uno e dopo magari vai al cimitero, l'altro te li richiede e così via. Se arrivi in un paese come Lovere, cioè quello da cimitero, quello da panetteria, diciamo quelli fermi. Al cimitero okay, cosa fanno? Chiede. Al cimitero che fanno? I fiori? Al cimitero uno li fermo, batte già sul discorso, sono di animo buono e quindi non disturbano. Anche a messa, fuori dalle chiese, non disturbano. In giro per il paese invece vanno i ragazzi più simpatici. Ciao amico, come ho sentito qualche signora, che sono anche simpatici, ok? Certo. Un altro ancora è quello che fa la parte, no, ma io non chiedo la carità, io vendo libri, soliti libri sull'Africa, sì, dove però se gli dai 3 euro te ne chiede subito 10 e poi 20, oppure se tu gli dai la carità perché gli dici non posso... Quelli fece un'osservazione, il compianto amico La Branca li osservò e notò che mettevano dei finti occhiali, gli occhiali con i vetri senza lenti, per dare l'impressione che vendendo libri avevano un aspetto di persone intellettualmente avanzate, che non erano dei venditori qualsiasi come vendessero borsette contraffatte o fiori. Quindi avevano tutti gli occhiali. Se nota, molti hanno gli occhiali perché vendendo libri davanti alle librerie poi devono avere gli occhiali per farti capire. Quindi c'è uno studio di marketing molto raffinato. Sentiamo Antonio da Cosenza. Antonio. Sì, salve, buongiorno. Sì. Io invece ho un'esperienza un po' più umoristica, quindi è vero, questi ragazzi sono estremamente educati, salutano, ciao amico, con il berrettino da baseball, se non che c'è un signore, questo un ragazzo che non appena mi vede, io entro al forno per comprare il pane, subito mi stende la mano, io gli do i 50 centesimi. Il resto della spesa, sì. Un giorno che cosa succede? In un'altra parte della città entro in una ricevitoria del lotto e lo becco che giocava al lotto tranquillamente. Allora, come questo mi vede, si raggela perché non capisce che non può più approfittare di questo status, e infatti io a questo qui, quando lo incontro al solito punto della panetteria, non gli do più un centesimo. Lui ha capito che io ho non capito ed è sempre non cortese, mi saluta sempre. Ma non le chiede più nulla? Non dice più nulla, ma non mi chiede più nulla perché sa. Si è bruciato quella piazza ormai. È consapevole che si è bruciato questo. Ma quindi come vede, cioè, ci sono delle strategie che allo stesso tempo non fanno spendere energie inutili. Una volta ci sono quelli che vendevano i calzini di plastica per strada, che non ti mollavano mai, ti tiravano per il braccio, alla fine risultavi anche scortese, perché una persona che ti ferma, ti vuol vendere dei calzini orrendi che tu non metteresti mai, è chiaro che non ce la fai più. Però è cambiato, hanno capito, la gente non vuole essere infastidita, non bisogna esagerare, non c'è essere quello che vuole per forza pulirti il vetro. Questa è una maniera adeguata alla mutazione del livello di insofferenza delle persone a dare soldi alle persone per strada. Forse è così. Rosario. Sì, buongiorno. L'ascolto. Ciao, buongiorno. Senti, volevo testimoniare, insomma, io faccio l'autista e mi reco nei punti vendita a scaricare con il camion. Noto sempre questi ragazzi davanti ai supermercati, praticamente in confidenza un direttore di un supermercato dove scarico mi disse che cambiano dalle 30 alle 40 euro di monete quasi tutte le sere. Beh, anche io ho visto un giocoliere tirare fuori da un calzino, c'ha un pacco di soldi abbastanza notevole, perché è chiaro che hanno un riscontro. Faccio solo una precisazione. Marco da Pescara mi dice: Nicoletti, noto che ha scelto un tema presentandolo un certo stentio maleodorante, stampo razzistico, criptofasci crescono. Ma guardi, scusi, vada altrove a fare le sue dimostranze, non c'è nessun stampo razzistico. C'è una normalissima maniera di osservare un fenomeno e cercare di capire se c'è un fenomeno. Non ho espresso nessun nessun termine discriminatorio o razzistico. Non ho nulla assolutamente contro le persone che lo fanno, voglio solo capire. E la conferma mi sta dando il pubblico che ci ho preso la cosa giusta. Esiste un'organizzazione generale che sfrutta, quindi in qualche maniera questi ragazzi sono vittime di chi ha organizzato il racket, che ha un sistema raffinatissimo. Vorrei conoscerlo, perché uno studio così attento dei nostri bisogni per riuscire a fare in maniera che già nelle vite grame e nelle preoccupazioni di ognuno ci sia spazio anche per l'elemosina, sarebbe un cervello che andrebbe usato in miglior scopo. Miriam, buongiorno. Razzista. Sì, buongiorno. Guardi, questa è proprio bella, perché ho visto personalmente un furgone la mattina consegnare nella mia città le stampelle a uomini sani che per tutto il giorno quindi diventano storpi. Quindi è una rivisitazione del format ottocentesco di Victor Hugo. Sì, è incredibile. È chiaro, cioè aveva un furgoncino di stampelle e le distribuiva. Sì, un furgoncino che viene distribuito la mattina a uomini che tra l'altro la città è piccola, quindi si vedono magari in altri momenti della giornata fare altri lavori più produttivi da sani, però quando non hanno niente da fare fanno gli storpi con le stampelle che vengono distribuite la mattina da un furgone. C'è il noleggio delle stampelle, è un po' come cargo, uno si prende la stampella, ci fa un giretto, poi la restituisce e naturalmente paga la percentuale all'affittuario, all'affittatore di stampelle. Alla prossima.